Sicuramente una situazione complicata che è venuta degenerandosi negli ultimi, dal 2019, gradualmente scivolando verso un baratro. Al momento c'è una grossa crisi abbastanza pubblicizzata dalla stampa in Italia. È una crisi che ormai non colpisce solo più quelle che erano parti più poveri della popolazione, ma sta colpendo anche la classe media nel paese. Quindi questo in cosa si traduce? Concretamente questo si traduce in un impoverimento generale. Gli ultimi dati danno dei livelli di povertà multidimensionale altissima dell'82% per quanto riguarda la popolazione libanese, cioè quindi una scarsezza di accesso ai servizi basici. Qualche mese fa un gallone di benzina, 20 litri, costavano al cambio, cambiando il dollaro al mercato nero, potevano costare un dollaro e mezzo, oggi costano $15. Un prezzo altissimo, quindi, esorbitante, assolutamente. Infatti l'ANSA riportava le proteste anche dei tassisti proprio del 25 ottobre, quindi si parla di lunedì, stanno continuando per caso? No, oggi era stato pianificato uno sciopero, un altro blocco stradale generale in tutto il paese, ma è stato revocato. Però giusto per darti un'idea di quello che significa questo, è il potere, il salario medio prima della crisi poteva essere attorno ai $17,500-$18,000 all'anno, un salario che poteva essere per esempio di un infermiere. Oggi, rapportato al cambio ufficiale, cioè oggi, considerando che la gente ovviamente non guadagna dollari ma guadagna lire libanesi, con la svalutazione della lira libanese corrisponde a meno di $3,000 all'anno. C'è un potere d'acquisto bassissimo. Certo, ed è un continuo, mi sembra di capire, anche un continuo di, ovviamente, di proteste di tutte le categorie, anche di professionisti che si vedono particolarmente toccati dal collasso economico libanese. Ma io devo dire una cosa, purtroppo questo delle proteste si esce sporadicamente, non come potremmo pensare. Io credo che i libanesi purtroppo sono bruciati anche dall'esperienza delle proteste di ottobre del 2019, nel quale hanno creduto, certo, quella che loro chiamavano la rivoluzione, e credo che sia stata un po' una doccia fredda, perché alla fine tutto è finito in niente, e è entrato tra l'altro purtroppo il tema Covid, per cui si è bloccato completamente il paese, e oggi più che protestare io credo che la gente è concentrata nella sopravvivenza diaria, no? Il giorno per giorno, cioè a vedere come mangio domani, come riesco a procurarmi i medicinali piuttosto che, o come posso pagare l'affitto di casa, no? Per quanto riguarda la questione dell'esplosione nel porto, no? E delle manifestazioni che ci sono state il 14 ottobre, sì, come, diciamo, protesta, quello che si dice, sì, è un giudice sottoposto al potere americano. Questo è un grosso problema, cioè le proteste erano legate appunto al fatto che alcuni gruppi vogliono la rimozione, no, di questo giudice che sta indagando e sta appunto puntando l'indice su alcuni politici che per ovvie ragioni non vogliono essere implicati in questo, e per cui i loro supporter stavano chiedendo la rimozione di questo giudice. Non credo che ci sia in generale nessuna volontà di andare nuovamente a un conflitto interno.